sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, non se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascalzone, non ti essere lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è troia. Comunque mi hanno anche detto che la vostra trasmissione va molto forte, di molto successo, ma forse piace la cattiveria. Ragazzi, veramente siamo messi male, siamo alla frutta. Se non capite il mio pensiero, io... Vi rendete conto che c'è un tizio che è a capo di un piccolo municipio nella città di Roma, un signore che vuole risolvere un problema concreto, cioè dire la massa di prostitute, di puttane, di zoccoli, chiamate come volete, io non lo dico in senso negativo, che affollano il suo quartiere la sera lì, e decide di, d'accordo col sindaco, di creare una zona diciamo legale tra virgolette, senza bisogno di leggi, di permessi, cioè di limitare l'afflusso delle prostitute in una zona particolare un po' isolata dell'Eur, quartiere di Roma. Tutti addosso. Non si può fare, la Chiesa, i giornali cattolici come al solito che parlano di sfruttamento della prostituzione, tutte cazzate. C'è un signore che vuole risolvere un problema concreto, il fatto che le strade dell'Eur, la maggior parte delle strade di questo quartiere della capitale, sono in base da prostitute. La gente giustamente in alcuni casi non ne può più. E allora, siccome in Italia non si decidono a legalizzare la prostituzione, che sarebbe la via maestra, c'è un signore, il capo di un piccolo municipio di una zona di Roma, il quale dice: bene, io limito la prostituzione in una zona e multo, secondo me sbagliato tra l'altro, e multo quelle che stanno in mezzo alla strada e i clienti che sostano in tutte le altre strade di Roma, di quella zona lì. Sindaco Marino, sentiamo il sindaco Marino, sindaco Marino che dice che addirittura ci saranno le multe a casa, le multe mandate a casa. Questa è un'altra follia. Limitatevi a fare le zone, senza le leggi, chi se ne frega. Se le non zone. C'è sanzione, però scusa. Ho capito, ma non si può multare mandandole. Comunque, buonasera intanto. Ma non mi interessa di buonasera. Volevo dire una cosa a lei e a tutti che gli vuoi, ascoltatori. Dimmi. La trasmissione potrebbe essere interrotta da qui alle 21, perché avendo io un piccolo problema, un'influenza intestinale. Ma noi ce ne fottiamo. Ah, dovresti andare a cagare, dici? Beh adesso adoro la modo con cui lo dici. Ma perché non ci fai sentire non ci fai sentire in diretta? Però questo ti volevo dire. Sono venuto qui alla radio per senso del dovere. Beh, dopodiché mi pare oggi sono andato 5 volte dicasi in 5. Mamma mia, che schifo. In un posto a evacuare. Che schifo. La notizia, ecco, è questo, Parenzo, allora, per 5 volte sono andato al cesso. Mamma esatto. mia, che orrore. Allora, amici amici miei. Siamo al flop. Eh sì, ma siamo in questo caso, sì, siamo al flop. Siamo, siamo al flop, flop. Della merda al che flop, scende giù. Sì. Flop nel cesso del Sole 24 Ore. Quindi... Vai a pulire! Vai a pulire bene! Vai a pulire quei bagni. Questo volevo dirti. Vergogna. Segnalo che non c'è la carta igienica. Che al piano schifo, secondo. Che schifo. Eh no, ma io questo lo segnalo. Allora, però. Portate la carta igienica, tassisti, bravo, che siete, bravo, in ascolto. Bravissimo. Tassisti che siete in ascolto, uomini utile, di fatica, bravo, camionisti, gente, beh, normale. Anche notai, avvocati. Sì, no, non credo che verranno lì. Sì. Piazza Indipendenza 23, barra, beh, com'è? Non CA, diamo tutti, quello che è. Piazza, che è C. Piazza Indipendenza 23C, accanto a che banca? Se volete dare anche un picchiare, Parenzo, passa, tanto ci sono i tornelli, non vi fanno entrare. Ma in ogni caso. Andate lì, portate la carta igienica, perché questo qua si potrebbe cagare sotto questa sera, capito? Detto così è un po' crudo, però. Beh, così, la realtà, me l'hai detto tu, io nemmeno lo sapevo, che sei andato per 5 volte in bagno. Non è che ho contrastato, ho detto che è un po' crudo, ma rende la realtà. 5 volte in bagno, amici miei, 5 volte. Ma non capita mai a te. Marino, a te piace un mondo così? Multe a casa, sì, ma non. Sì, non capita, devo dire la verità, non mi capita di avere il cagotto per 5 volte al giorno. Non mi capita, però. A me fa cagare un mondo così. Beh. Un mondo così fa cagare. In questo caso fa cagare Parenzo. Comunque, ragione. Marino, dai, su questa storia delle prostitute. Individuare dei luoghi dove questo non è tollerato assolutamente, come parchi pubblici dove le famiglie vanno, e mandare a casa dei clienti una multa che dica chiaramente che la multa di 500 euro è legata al fatto che si intrattenevano con delle persone che facevano della prostituzione il loro mestiere. Credo che questo possa essere un deterrente. E allora, in linea di massima, se tu vuoi creare una zona escludendone altre, chi va in queste altre zone è giusto che sia sanzionato. Però mi sembra eccessivo dare 500 euro specificando addirittura andava a zoccole. Dai ragazzi, su. Se non c'è sanzione, ripeto. Poi il sindaco Marino, quando uno dice che lui non è impopolare, anzi è molto amato e la gente si fa i selfie con lui, ma... se lo dice da solo, ti giuro, se lo dice da solo, senti. Si sente un sindaco amato. In questo momento molto, devo dire, ieri sono andato a ritirare, dovevo farlo molto tempo fa ma non ho trovato il tempo, gli occhiali perché avevo cambiato la graduazione. E nelle poche centinaia di metri che ho fatto a piedi, moltissime persone di Roma e anche moltissimi italiani di altre città mi hanno chiesto di farci un selfie insieme, di fare una fotografia, e si sono congratulati per l'opera di pulizia amministrativa che stiamo conducendo. Vabbè ragazzi, ma che cazzo c'entra? Dai, adesso non è che la gente si fa i selfie con te, che ti devi pigliare assassate per strada. È chiaro che ti incrocia qualcuno, c'è la scorta e tutto, ti danno, si fanno i selfie, ma è normale che sia così, lo fanno con tutti, cioè, lo fanno pure persino con me, Parenzo, persino con te, credo, ogni tanto qualcuno. Quello è il gusto dell'orrido. Sì, no, d'accordo. Quello però... è il gusto dell'orrido, allora, la gente che vuole l'abisso. Quando uno si chiede, se lo dice da solo, per esempio, no, Giuliano Amato, no? Signor Giuliano Amato, io credo che non ci sia persona più impopolare, magari ha torto, in Italia, di Giuliano Amato, uno, beh, che ha messo le mani nelle tasche degli italiani, tu dici per salvare l'Italia. Ha salvato l'Italia, d'accordo. Ma uno che dice non sono impopolare, lo vedo quando cammino, Giuliano Amato, amico mio! Queste brutture, queste ingiuste cattiverie che, come tutte le cattiverie, rimbalzano sui social media, avevano generato secondo me, favola di una mia impopolarità. Di sicuro Adriano Celentano è più popolare di me, ma questo non significa che io sia impopolare, e me ne accorgo quando cammino. Me ne accorgo quando cammino. Dipende uno dove cammina, no, certo, se si limita a fare ufficio della camera, casa, anche circondato da alcune persone. Ma ho capito, ma nessuno. Ma è incredibile, ragazzi, è incredibile. Come è incredibile la vicenda dei transfughi da Scelta Civica al Partito Democratico. Abbiamo già detto la settimana scorsa, io e Parenzo abbiamo idee diverse su questo, però l'incoerenza di Renzi, ragazzi miei, è clamorosa, clamorosa. Dovrebbe dire Renzi a questi signori di Scelta Civica che sono passati al Partito Democratico: no signori, dimettetevi e poi ne parliamo. Perché lui stesso nel 2010, nel 2011 diceva la stessa cosa. Vediamo, anzi sentiamo una roba che è circolata molto nella rete in questo fine settimana. Renzi, quando diceva nel 2010, sentiamo. dovevate avere il coraggio di dimettervi dal PD e di dimettervi dal Parlamento, perché non si sta in Parlamento con i voti presi dal PD per andare contro il PD. Vale per voi, vale per quelli di loro che vanno via, è l'ora di finirla con chi viene eletto con qualcuno e poi passa via. Basterebbe solo questo per mettere la pietra tombale su quello che è successo, al di là delle valutazioni di sciolta civica, eccetera, eccetera, chi è passato, chi non è passato, motivazioni. Io dico solo una cosa: il ministro Giannini, ministro dell'istruzione, che dice, bah, io sono sempre stato da questa parte, eccetera, non sarebbe stato ministro se non fosse stata eletta con scelta civica. Adesso passa nel PD. Se fosse stata eletta nel Partito Democratico, sarebbe una qualunque. In quota scelta civica è diventata ministro. In quota scelta civica. Altrimenti, fosse stata eletta nel Partito Democratico, sarebbe stata una qualunque, non sarebbe stato ministro. Questo mi pare chiaro, no? Mi pare accertato. Formidabile scazzo tra Mario Capanna, già nostro ospite qui, con cui abbiamo avuto un durissimo scontro, e Massimo Giletti all'Arena. Sentiamo la conclusione in cui Giletti, poi credo si sia scusato, ha buttato per terra, credo, il libro di Capanna, che Capanna gli aveva regalato all'Arena. La ringrazio della sua presenza. Leggi il libro e potrà imparare, guardi, un sacco di, sai, io di questo libro sa cosa potrà voglio dirle? Un sacco di cose. Le vorrei dire una cosa. Dimmela. La imparerò in un certo posto questa cosa, ma Isabella è una donna, le faccio raccontare questo perché capisca a cosa serve la politica. Isabella è una che si alzava alle 4 di mattina, andava a lavorare con l'altra metropolitana alle 7 dove sta in questo posto, è morta d'infarto. Io lavoro per questa gente, e non per lei. E anch'io. Pubblicità. E anch'io, Giletti. Pubblicità. Butta il libro. Allora, c'è con noi Mario Capanna. Ciao Mario. Salve. Eccoci qua. Salve. Allora, Capanna, innanzitutto, prima di troppo affrontare i soliti discorsi sul vitalizio, la decurtazione del 10%, eccetera, eccetera, so che abbiamo un accordo, bisogna parlare con tempi prestabiliti, poi vedremo quello che succederà. Ma le chiedo subito una cosa, e credo che ci sia un posto dove voleva andare a leggere Giletti il suo libro, che è quello dove Parenzo oggi è stato per 5 volte, cioè il cesso, se non sbaglio, o no? Dovreste chiederlo a Giletti. Quello che io posso dirvi invece è una cosa che hanno visto 4 milioni di telespettatori. Cioè? E che il signor Giletti... Perché lei dice Giletti? Un momento. Abbiamo detto che se fate un'altra interruzione nei miei 2 minuti di risposta io interrompo. No, era per il nome. Era per il nome Giletti. Attenzione. I patti vanno osservati. Sì, d'accordo. Ma era il nome Giletti. Un'altra interruzione e io vi mando a quel paese. Vabbè, d'accordo. Perfetto, silenzio, stupendo. Allora, i patti vanno conservati. Sì, stupendo. Serbando allora, solo. Giletti aveva pensato di fare il coup de théâtre, no? Sì. Siccome aveva il pallino in mano, ha detto benissimo, basta pubblicità, chiudo la trasmissione. Sì, a quel punto, e voi un pochino ormai mi conoscete, assolutamente, no? Sì. Io ho detto perfetto, poiché la trasmissione è in diretta, adesso ci divertiamo. Faccio il casino. Io ho detto Giletti. Giletti, adesso, però, quando le ripartono le telecamere, tu raccogli il libro e ti scusi. Proteste, dieghi e compagnia bella. Ovviamente io non mi sono mosso. Certo. E 4 milioni di telespettatori, però questo avreste dovuto dirlo voi. Ma adesso lo mandiamo. Hanno visto il Giletti raccogliere il libro, sì, scusarsi con me e con i telespettatori. Una figura di merda. Mentre io gli ho detto 4 volte vergognati. Figura di merda avete detto, bravi. No, ma è giusto. Capanna. Dunque ha fatto una figura di merda o no? Beh, questo mi pare indiscutibile. Addirittura, e magari vi do una notizia, oggi il segretario della Commissione parlamentare di vigilanza, un deputato, Ansaldi, ha preso formale posizione e ha chiesto che venga convocato il direttore generale della RAI e che ha ritenuto quel comportamento di Giletti con i soldi pubblici assolutamente inqualificato. Una domanda con risposta veloce. Ti ricordi però, Mario, scusami, quando a Tele Lombardia 10 anni fa tu per colpa mia occupasti... Lui occupò lo studio di Tele Lombardia per 2 giorni, Mario Capanna. Domanda veloce, risposta veloce, poi abbiamo il traffico. È questo. Come consideri Giletti? Proprio risposta telegrafica. Ma porta pazienza. Come lo considero io è rilevante. No, è importante. Un conduttore. Cui vengono dati 330.000 euro all'anno. Vabbè, quello che c'entra. Soldi pubblici. E vabbè, che c'entra. Che perde la Trebisonda. E perde il controllo nervoso. Sì. E che fa un gesto volgare e totalmente indegno di quel genere. Per capirci, no? Sì. Un Bruno Vespa non avrebbe mai fatto una cazzata come quella, è chiaro? Per cui, come lo consideri? Per cui è un... un poveretto, insomma, uno che merita di essere assistito, voglio dire, no? Cioè, roba d'ambulanza, roba da cosa? Più o meno. Più o meno roba d'ambulanza, ma andrebbe cacciato dal servizio pubblico, secondo te? Secondo me andrebbe, come dire, come dire, fattogli un ragionamento. Un foglio di via. No, per capire che quando si gestisce la televisione pubblica bisogna essere corretti e imparziali. Ma scusate, ma voi non so se avete visto la trasmissione. Io ho visto tutto, ho visto perfetto. Tutto. Allora, avete visto quando io l'ho accusato di avere usato tre falsi contro di me? Vabbè, ho capito, quello ha risposto dicendo che non erano falsi. No, Mario, scusa. Certo che lui scusami. Uno che dice, no, allora tu non vuoi rinunciare ai 200 euro? E gli ho detto, ma sei un cialtrone, perché già Patelli, segretario della Santa Sì, ho sentito tutto. Tre mesi prima ti aveva detto che non era vero, che eravamo pronti per la stessa cifra a istituire un fondo. Ma io non ho capito, secondo te, che cosa... Che tu menti. Che cosa dovrebbe fare la televisione pubblica? La televisione pubblica cosa dovrebbe fare a questo punto? Mandarlo via e sospendere la trasmissione? Secondo te, dopo quello che è successo? A me non me ne importa nulla. Beh, no, ormai, guarda, quella figura barbina che ha fatto rimarrà negli annali, non solo della televisione, ma verrà insegnata nelle scuole di giornalismo. Come cosa? Per dire, guardate, un conduttore non deve mai fare una bischerata di questo tipo. Per cui non è un giornalista, secondo te? È un giornalista minus. Traffico, torniamo subito, mitologico, Mario Capana. Poi ovviamente c'è la contestazione nel merito, dove tu hai insistito, perché devo dare atto a Capana di una cosa: io la penso in maniera totalmente diversa da lui rispetto alla questione delle pensioni, diminuirsi del 10%. Lui dice che in realtà non è questione di rinunciare al 10%, ma di metterle in un fondo. Sappiamo tutto, non è perché l'abbiamo invitato prima noi qui, però combatte come un leone, eh. Sei ancora a casa? Lei vuole che io raccolga libro? Lo faccio molto volentieri. L'hai ragione. Tu, vergogna. Lei ha ragione. Ha ragione. Glielo raccolgo. Lei ha perfettamente ragione. Tutti i pensionati d'Italia, tutti intorno a Capanna contro Giletti. Mario, cosa volete? Allora, io vorrei capire una cosa: come finisce la questione qui? È finita qui o no? Basta. Quella con Giletti, la vicenda con Giletti è finita qui? No, ma allora voi siete disattenti. Scusa. Non avete udito distintamente Giletti che ha detto sì, ci rivediamo in una prossima trasmissione. Ma lei lo querela o no? Per parlare non dei 200 euro, ma della famosa frase del Papa dell'altro giorno, quando ha detto questa economia basata sul capitale finanziario, va avanti a fare soldi con altri soldi e affama la gente, questa economia uccide. Allora Giletti si è impegnato a chiamarmi per un nuovo confronto su questi temi che finalmente davvero interessano tutti. Secondo lei la gente del fatto che lei non vuole ridursi il vitalizio del 10% non gliene frega niente? Ah, ma allora devo accusare di falso? No, ma io riassumo. Lasciami dire. Dimmi, non interrompete. Dimmi. Allora, scusi, Duce. Noi abbiamo già detto, e ve lo ripeto fino alla nausea. Noi quelli che hanno fatto le cose. Quando l'Italia ci renderà quei soldi, noi non li metteremo in tasca, ma useremo la decurtazione dei 300 euro per fare un fondo di solidarietà. Benissimo. Ma quello chi se ne frega potrebbe dire la gente. Non capire, per Dio, che la questione di principio, per cui anch'io ho fatto il ricorso, riguarda porre un freno all'assalto ai diritti acquisiti. Capanna, pensato la Fornero e Monti. Va bene, d'accordo. E quando si comincia a intaccare diritti acquisiti si va poi... Ma Giletti le ha fatto semplicemente notare... Il nostro ricorso è fondato sulla Costituzione, sul fior di sentenze della Corte Costituzionale e perfino fior di sentenze della Corte di Lei però, europea. Per ottenere quei vitalizi... Ma non vi basta? No, va bene, poi decideranno i giudici. Capanna, però la domanda è questa: siccome lei prende 5.000 euro netti al mese e secondo la legge, mica li ruba, allora lei però per ottenere quei soldi, come ha ricordato giustamente il professore emerito Giletti l'altro giorno, Giletti con un L, no con due, ha versato 30.000 euro e ne ha presi fino adesso 380.000. Ho capito, ma lo volete capire anche voi che il problema non è decurtare qualche centinaio. Ma se le chiedono un sacrificio, lo faccia questo sacrificio, lo faccia. No, fatemi dire però, gli accordi, ragazzi. Allora, accordi, non è decurtare qualche centinaio di ex consiglieri regionali di 100-200 euro, ma devi alzare. Vabbè, ma quello è la politica che lo fa, che lo decide. No, derivante dal fatto che la metà qualcuno può dire, però a te non cambia la vita. 1000 euro al mese e molti anche meno. Bisogna combattere, cosa che io faccio. Cioè, lei lotta, vita, lotta in nome del popolo, lei lotta per il popolo. Buoni. Per alzare quelle pensioni. Lei lotta per i più poveri. Per alzare per invidia lei... quelli lievemente superiori. D'accordo, questo abbiamo già detto. Lei dunque questa azione qua, in cui si oppone a questa, a questi 10% in meno, lo fa in nome dei più deboli, giusto? Ma è ovvio. Ma non è ovvio. Lo faccio da una vita, ragazzi, lo faccio. Ma da ho una capito, vita. Ma perché non rinuncia a questo 10%? Allora, anche rinunci. Giletti dice che allora, lotta per allora i più deboli. No, ma ho capito. Giletti, no? Giletti, Giletti con un L, Giletti. Io non li vedrò più, perché ci faccio, quindi ci rinunciamo. No, ma che cazzo volete di più? ragazzi, però portate pazienza. Ma no? Questo fondo, che fondo è che vuole fare? Il fondo di che? È un fondo per le borse di studio. Ma beh, tutti così, ma è come Grillini lei. Nelle biotecnologie. Ma come dice fa Grillo con lo stipendio del deputato? Per la conservazione, ad esempio, di prodotti regionali della Lombardia, altrimenti destinati alla decadenza e alla scomparsa. Ma perché dice Giletti? Perché dice Giletti? Quindi, ma che cosa avete da obiettare? Ma perché lei deve rinunciare? Perché lei non dice di non essere un privilegiato, invece è un privilegiato. Chi lo dice? È un privilegiato perché ha versato meno e prende di più rispetto agli altri cittadini italiani. Questo è il punto. È una stronzata. Ma non è una stronzata, è la verità dei fatti, dei numeri. Allora, vorrei parlare. Sono sempre fino adesso abbiamo parlato. Perché è una stronzata? Non è una stronzata. Sì. Ma quali accordi? Di chi? Però facciamo così, siccome lei giustamente... Aspetti, Capanna, siccome lei deve avere due minuti... Allora, no... a dargli una degna sepoltura al gatto, quel gatto che è in testa, che si è lontano un chilometro che è un gatto morto. Ah, porca puttana, ma si è lontano un chilometro che è un gatto che non è, sono sotto i capelli. Quando Renzi tuonava contro i responsabili, sentite, contro i responsabili come erano definiti da Renzi, come i tacchini a Natale, era il 22 febbraio del 2011, 4 anni fa, l'archivio della Zanzara canta, caro Renzi, così trattavi quelli che passavano da un partito all'altro, adesso invece te ne fotti e li accogli beatamente nel Partito Democratico. Io dico semplicemente, per quello che conosco io, visto che avete chiesto il voto ai cittadini dicendo dimezzeremo i parlamentari, l'ha detto Berlusconi, dimezzeremo i parlamentari e voleremo le province. Se lo fa oggi, sa qual è il problema? Che il gruppo dei cosiddetti responsabili, quello statista di Scilipoti per intendersi, cosa fa? La prima cosa che gli succede è che prendono e, essendo un tacchino che vede riavvicinarsi il Natale, dice io non ci sto più. Non ci dimentichiamo che abbiamo fatto recitare il Padre Nostro al Vescovo di Ferrara, Don Luigi Negri, Monsignor Negri di Ferrara, che è pizzicato dal falso pontefice, ovviamente interpretato dal signor Mercù, ha chiamato il centralino della curia di Ferrara e ha parlato direttamente con Don Luigi Negri, e abbiamo fatto recitare a Don Luigi Negri, che si è un po' pentito di quella frase sull'aborto che a causa la crisi economica, eccetera, eccetera, ha recitato il Padre Nostro. Beh, insieme a lui, male. Padre Nostro, un po' in segno di pentimento. Non voglio darti una delusione, ma il prefetto di Roma, il signor Pecoraro, ha definitivamente chiuso la discussione sulle zone rosse, cioè, a luci rosse a Roma, cioè, all'Euro. Dice che è contro la legge, non si può fare, quindi arrivederci. Ma è l'ipocrisia dell'Italia, non rassegnati, si può fare, amico mio. Non si possono poco fare fa i bordelli. Il prefetto Pecoraro, sì, no, ma per prefetto carità. Di Roma chiude la discussione sulle zone a luci rosse. Vabbè. È contro la legge. La solita non si cosa all'italiana: non si possono fare, non si possono fare i bordelli. Volevo darti un dolore c'è ancora enorme. La legge Merlin. La legge Merlin. C'è l'ipocrisia sullo sfruttamento delle donne che tira fuori la Chiesa, come al solito il Vaticano, contraria a qualsiasi regolamentazione da questo punto di vista. Ma qui è il perfetto, il prefetto, il Dopodiché parfait, c'è un signore, parfait. Un povero signore che è il, come dire, il sindaco di una piccola zona di Roma, che decide di fare una cosa ragionevole e viene bacchettato da tutti. Vergogna. Oh, attenzione, Grillo è andato in America. In America? Sì, è andato in America. Aveva lo spettacolo perché che ha annullato, ha scoperto, no? No, ha scoperto che si possono fare le torte con la stampante 3D. Si può assaggiare, perché queste sono torte fatte con la, con la stampante 3D di zucchero, sono zucchero, quindi non è plastica, quindi sarà il futuro della, della cucina e della, di questi cuochi ormai che impestano tutte le televisioni del mondo. Io non voglio le torte fatte con la stampante 3D, non le voglio le torte fatte con la stampante 3D, ma cazzo. No, vabbè, quindi... Non le voglio, non le voglio. Il massimo sarà questo, metti il tuo file lì dentro, ti fai la torta, ti fai le pietanze, ti fai quello che vuoi senza bisogno di cuochi e di chef. Dio mio, ma la trovo una cosa meravigliosa. And now the headlines with News Channel 3. E adesso i titoli del TG3. Un'altra strage di migranti, il 29 muoiono assiderati al largo di Lampedusa, altri due barconi alla deriva, il sindaco Nicolini, siamo tornati a prima di Mare Nostrum. Vertice a Washington sulla crisi ucraina, Obama accusa Mosca, ha violato ogni accordo, Merkel no a soluzione militare, Putin non accettiamo ultimatum. Forza Italia e Lega in Parlamento, opposizione dura, si lavora ad un accordo per le regionali, Salvini però avverte mai alleanze col nuovo centrodestra. L'OCSE, l'economia europea ritrova slancio, migliora anche l'Italia, Padoan possibili sorprese positive dal PIL, Tsipras fiducioso in un accordo sul debito, svelata la cosiddetta lista Falciani, 100.000 conti svizzeri per un'evasione di 180 miliardi tra i clienti Re Arabi, star di Hollywood e 7.000 italiani. Chiusa l'inchiesta di Cremona sul calcio scommesse verso la richiesta di rinvio a giudizio per 130 persone, tra loro il CT della Nazionale Conte. Un bambino di 10 anni, complice di una rapina all'ufficio postale 2 anni fa nel Napoletano, aveva aperto la porta ai banditi su ordine della madre, incastrata da un video. La donna è stata arrestata. Il moralismo che c'è in questo paese, è incredibile. Non si possono fare i bordelli, non si possono nemmeno limitare delle zone per mandarci le prostitute e i clienti, perché così dice il prefetto di Roma, che è contro la legge. Ovviamente tutto può essere interpretato. E in più oggi sono uscite le motivazioni, sempre sulla prostituzione, sì, del processo Ruby Bis, in cui si immagina, anzi si sentenzia in appello, che il signor Emilio Fede, il signor Lele Mora, la signora Nicole Minetti sarebbero praticamente dei papponi. Così si dice, nero su bianco, sarebbero praticamente dei papponi che la portavano legge, le dice, cioè. Sì, sì, giudice, che portavano le mignotte da Berlusconi. Cioè ad Arcore c'era un sistema prostitutivo dove tutto veniva retribuito. Certo che le persone venivano retribuite, anche solo per stare lì, anche solo per mettersi come suore. Tutto veniva retribuito. E allora? E allora? Dicono anche i giudici che Berlusconi comprò il silenzio di Ruby Rubacuori, di Ruby Rubacuori. Abbiamo fatto recitare il Padre Nostro a Don Luigi Negri. Prima di salutarti vorrei che pregassimo insieme, Padre Nostro. Che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci del male. Amen. E ancora con noi, lo stanno attaccando tutti qui via web, con le telefonate, Mario Capanna. Allora Mario, dove eravamo rimasti? Ma questa roba che mi attaccherebbero tutti è una vostra immaginazione. No, telefonate. Qualcuno è incazzato, Marione. Di sostegno. Tu hai centinaia di messaggi di solidarietà. Siamo rimasti al fatto che voi vi ostinate a guisa del tapino Giletti a non capire una cosa elementare. Il tapino. A guisa quando uno viene eletto a una funzione legislativa, sì, però, sia essa il Parlamento o il Parlamento regionale, allora? La istituzione fa un patto con quel soggetto e gli dice per tutto il tempo in cui tu sei in carica io ti do totte di stipendio. Ho capito. Sul quale faccio delle trattenute che accumulo perché lo stipendio differito, ovvero la pensione, ho capito, ma io te la do quando compi 60 anni. Ma i contributi dati sono eccessivi. I contributi sono eccessivi rispetto. Quindi, come vedete, è assolutamente normato. No, ma c'è una discrasia, però. Scusami. Aggiungo, se permettete. Sì. Cioè, tra i lavoratori della Camera. Scusa, aspetta. Quei 5.000 euro scarsi, peraltro. Scarsi. Io me li sono semplicemente guadagnati. No, sono eccessivi rispetto a quello che con gli stessi soldi versa un lavoratore. Sono troppi. Ed è per questo che bisogna migliorare la condizione del lavoratore. Ma che c'entra? Ripeto, ma non siamo nel paese di Alibaba, non è? Cruciani, una cortesia. Che c'è? Dimmi. Quando lei poi farà il suo solito lancetto stampa, per piacere però riporti le cose che io ho detto. Che cosa? E non come la volta scorsa, spesso, come dire, il contrario. Ma come? Il contrario non mi pare proprio. Giù di lì. Ma assolutamente Giletti, no. Giletti. Ma perché? Giletti. Che facciamo? No, ho capito, cosa lei vuole ha pensato, dire, scusi, però arriviamo a un punto. Capanna, lei deve dire, io sono un privilegiato rispetto ai cittadini normali, sono un uomo privilegiato, perché ho versato di meno e incasso di più, sì certo. Ma che cacchio dite, ma lo sapete? Ma lei è un privilegiato rispetto agli altri. Buono, questa è la tua tesi. Lei è passato dalla lotta per il 10%, dalla lotta per la rivoluzione al 10%. Ancora Giletti, però una L ai radioascoltatori. Scusi Capanna, però perché lo chiama Giletti? Mi lasci finire adesso. Ma si chiama Giletti, però. Io sono l'unico europarlamentare, ex europarlamentare che ha rinunciato alla cosa. Che ha rinunciato al vitalizio fin dal 1979. Sì, e dove l'ha messo sto vitalizio? E mi sono dimesso il 24 novembre. Vabbè, ma quello chi se ne frega? Da presidente del Corecom del Ma Lugia, quello ce ne sbattiamo, dai. Sempre alla leggina regionale. Però scusi, quello non interessa. Capanna, lei non si vuole tagliare il 10% per principio, perché dice di battersi per tutti quelli che hanno i diritti acquisiti. In Italia i diritti acquisiti non dovrebbero esistere. Ma allora siete proprio davvero come Giletti, cioè i sordi che non vogliono sentire, siete come Giletti, offesa massima. 14 volte. Beh ragazzi, comunque sentite. Ci siamo detti ciò che andava detto. No, ma con voi sono stato longanime. Vi ho dato molto del mio tempo. Molto, addirittura. Forse conviene che ci salutiamo. No, ma scusi, un attimo, Capanna. Lei però. Non mi voleste mollare. Lei però ha 5.000 euro al mese rispetto alla gente. Ma perché non si vergogna un po' di non voler rinunciare al 10%? Ma perché non vuole. Perché non si vergogna un po' di non voler rinunciare al 10%? Si vergogni un po'. No, vergognatevi voi che non fate una pippa lì con quella radio e spargete minchiate alla Giletti, per l'appunto. Noi spargiamo minchiate. Ma le minchiate le dice. La minchiate le dice lei, no? Io, le minchiate le dice lei, perché non si sente un privilegiato, si sente uno regolare, si sente uno che non vuole rinunciare al 10% in nome degli altri, per fare la battaglia per gli altri. Andare avanti con questo soliloquio fino a quando? Ma lei perché non ammette di aver versato poco e di prendere tanto? Perché non è vero. Non è vero, vabbè. C'è ragione che vi ho appena dimostrato che non è vero. Non è vero. Dopodiché, ho passato a un nuovo argomento, se no la cosa diventa insopportabile. Va bene. Che vogliamo fare con Giletti? Cacciarlo dalla televisione pubblica? Non si può fare. Lei non lo può fare. Spera che Giletti venga appena. Io non chiedo nessuna cacciata, però chiedo che il consiglio d'amministrazione della RAI e la commissione parlamentare di vigilanza faccio un'inchiesta. Lo aiutino a darsi una registrata. E come? In che modo? Decideranno loro, io non faccio parte della commissione. Ma come? Scusa, aiutino a darci una calmata con i calmanti, con le medicine, come? In che modo? Ripeto, io non sono un medico né. Cioè la mordacchia, vuole la mordacchia su Giletti. Decidano loro. Cioè non si deve esagitare. È stato beccato a impostare una trasmissione su tre dati di fatto falsi. Ma non è vero. No, falsi non erano. della sceneggiata che ha fatto, che è stata obiettivamente indegna. Dunque, ma cosa le ha detto la gente tornando a casa, Capanna? La gente cosa le ha detto? Io non voglio difendere Giletti, non me ne frega niente, anche se lo conosco. Ha fatto il suo mestiere, quello di criticare una cosa, punto. Certo, l'ha fatto arrabbiandosi, ma a noi come non può piacere una persona che si arrabbia sul servizio pubblico? Finalmente, questa non te la lascio passare. Lo ha fatto affermando il falso. Ma non è vero. Sapendo di mentire. Vabbè, allora che cos'è? Uno spergiuro? Che cos'è? Perché lo fa? È un mentitore. Non un mentitore. Lo fa. Ma perché lo fa? Per l'audience? Perché lo fa? Per fare casino? Ha dimostrato inoppugnabilmente che ha mentito. Ma che c'entra poi, come lei ha detto all'inizio, che guadagna 300.000 euro l'anno? Che c'entra? Come che c'entra? È un denaro pubblico, non ho mica capito. Ma ho capito, ma fa ascolto però. È un denaro pubblico che paghiamo con il caso. Ho capito. Ma è sottoposto al mercato però, scusi. Ma lui, dunque, il privilegiato è lui? Io non ho usato questa categoria, privilegiato, non privilegiato. Queste sono segate che usate voi, segate. Io non l'ho mai pronunciato. Segate, vabbè. Segate. Bene, vabbè, a presto. Volete? Ciao, niente, grazie, no, ti abbraccio. Niente, ciao. Va bene, ciao. Rinuncia al 10%. Rinuncia al 10%. Mi raccomando, il lancio stampa, attenzione. Rinuncia al 10%. Lancio stampa, attenzione. Rinunci, rinunci, rinunci, rinunci, rinunci, rinunci, rinunci, rinunci, rinunci, rinunci. Cercate di parlare di argomenti più seri. Rinunci, rinunci al 10%. Rinunci al 10%. Non vuole rinunciare, vergogna. Spettacolare, spettacolare. Attenta Cruciani, lei non mi è molto simpatico, però seguo la Zanzara dalle 6 del mattino a mezzanotte alla sera. Lorenzo da Genova, vai. Fate bene a dare voce a persone come Capanna. Perché che dobbiamo fare? Fa venire il vomito. Quello sarebbe stato la persona che difendeva il popolo, è una roba da matti. Come fa venire il vomito sentire le interviste del buon Bertinotti quando gli vogliono togliere l'auto? Come fa venire il vomito sentire come si discolpa il nostro Bonanni da un altro? Ma io devo dire, tutte persone che hanno dato la vita per la tutela, la salvaguardia del popolo. Beh, sindacalisti spesso amici di Parenzo, diciamo, no? Parenzo è un bravo ragazzo, per l'amor di Dio, caro. Parenzo è un bravo ragazzo. Il problema è che fate bene a dare voce a queste persone. Il buon Ma adesso non si può, scusami, però. Più parla e più si mette in una condizione disastrosa. L'ho sentito per 3 volte, in 3 diverse occasioni, arrampicarsi sugli specchi e non ci riesce mai. Più parla, più peggiora la sua situazione, ma non lo capisce. E sì che è diventato mica vecchio per niente, no, l'uomo letto. Vabbè, ma la vecchiaia adesso però non si può prendere come riferimento del male assoluto. Ma sì, sto dicendo, lo appoggi. Non è che lo appoggio, ti sto dicendo, non si può prendere come il male assoluto il caso Capanna e farlo diventare la madrina di tutte le sciagure italiane, allora, perché è sbagliato. Poi è facile bersagliarlo. Ce l'abbiamo un disastro di Capanna in Vabbè, Italia. Questa è un'altra questione. No, ma non voglio adesso, non voglio però dire. Cioè, sembra che i mali dell'Italia siano Capanna. Dovrebbero avere il buon senso di non provare a discolparsi di fronte all'opinione pubblica, perché i giochi sono fatti, voglio dire, tutto è abbastanza evidente. Vabbè, ma che no? Deve fare? Basta rinunciare a questo 10%, sono 200 euro al mese, non rompesse i coglioni. Ma rinunciasse, basta. No? Avrebbe dovuto, per salvare un po' di la faccia, avrebbe dovuto dire sì, accetto, no? Sarebbe finita la trasmissione, nessuno l'avrebbe più ricordato. No, lui dice di battersi per il popolo, per i diritti acquisiti. Ma tanta cortesia, Cruciani, lascia perdere, va là. Ma chi è che vuole convincere? Bertinotti, lo sai che Bertinotti, lui rinuncerebbe alla scorta, probabilmente, ma se non lo decidono altri, lui come fa? E non è il primo, non è il primo. Ciao Lorenzo, ciao. Ciao. A proposito di privilegi, c'è un altro signore che si chiama Nicolò Cristaldi, sindaco di Mazara del Vallo, che oltre allo stipendio da prima cittadino ha un vitalizio dalla Assemblea regionale siciliana, cioè dalla Regione Sicilia, quel grande carrozzone che è la Regione Sicilia, pari a 8.704 euro. 4 legislature, 8.704 euro. e poi anche un assegno di 2.803 euro dalla Camera dei Deputati, oltre a varie vicende personali che lo riguardano. E dice che i soldi sono suoi, il suo datore è la Repubblica. No, caro Cristaldi, i soldi sono nostri e sono soldi che vi siete mangiati in Sicilia. Vi siete mangiati in Sicilia, sono soldi nostri che vi siete mangiati, chiaro Cristaldi? I soldi non sono dei cittadini, i soldi sono miei. Lei ha come datore di lavoro la Sette, io ho come datore di lavoro lo I Stato. Cittadini. Lo Stato. I cittadini. Lo Stato, la Repubblica è il mio datore di lavoro. Sa qual è la differenza? Il mio stipendio non lo decido io. Ma nemmeno io l'ho deciso. Come no? Chi vuole deciso che... io? E chi decide gli stipendi dei deputati se non i deputati? Chi decide gli stipendi dei deputati regionali se non i deputati regionali? Ma sì. Ma questo mi sembra un po' di un po' populista, un po' demagogico. No, no, no. E insiste in un paragone incredibile col presidente del Congo belga. Sentite. In totale fa 16.500 euro al mese. Lei sa quanto prende Vladimir Putin? Guardi, lasci stare quanto prende di stipendio. Ma lei sa quanto prende Vladimir quanto Putin? Guadagna Vladimir Putin? Ma scusi, lei cosa mi chiede? Quanto prende di indennità all'anno. O quanto guadagna Vladimir Putin? 93.000 euro all'anno. Guardi. Ma le sembra normale che la Russia spende per Putin la metà di quanto l'Italia spende per lei? Ma Putin, lei lo sa? 93.000 euro all'anno. Lei lo sa quanto prende il presidente del Congo belga? 12 dollari al mese. Questa cosa del Congo belga è straordinaria. Bellissimo. Stupenda. Bellissimo. Lei lo sa quanto prende il presidente del Congo belga? 12 euro al mese. Beh, ma il presidente del Congo, a parte che il Congo belga non esiste più, insomma, sì. Si chiama in un altro modo. E poi probabilmente altri introiti che non quelli ufficiali. Il famoso presidente del Congo belga. Senti ancora Cristaldi, Prendo di fatto non prendo manco una lira, perché io stesso sono stato condannato dalla Corte dei Conti a pagare per esempio 100.000 euro, di fatto devo pagare sul piano personale. Ma non dovevo camminare con la macchina, dovevo camminare a piedi, non l'ho capito. Ma con 16.000 euro al mese la macchina non poteva mettercela lei? No. Lei può decidere una cosa, convincere i cittadini a votare per un altro. No, ma io non chiedo questo. Allora, non chiedo questo. Perché se dovevo mettere io la mia macchina? 16.000 euro e l'auto del comune, ma quello è il meno, quello è il meno. Cioè è chiaro che il sindaco di una città come Mazara del Vallo non deve avere l'auto comunale pagata da noi, quello è in generale. Quello la utilizza anche se prende 16.000 euro con tutti i vitalizi e lo stipendio da sindaco, eccetera. È stato pure condannato perché ha tirato un ceffone questo signore, senti. Sono stato condannato in appello per aver dato, secondo la sentenza, un ceffone. Molti cittadini pensano che i politici condannati non debbano prendere i vitalizi, debbano fare i politici. Guardi, i ladri non devono prendere idea, ma se per esempio. I violenti non è che debbano fare i politici. Abbiamo il deputato regionale, il deputato della Repubblica guadagnerebbe molto meno. Arrivederci, grazie. Claudio da Prato, vai. Buonasera Cruciani. Dimmi. Senta, volevo dire tre parole a quel galantuomo, ripeto, sottolineo, galantuomo di Capanna. Vergogna, vergogna, vergogna. Io ho 58 anni, sì. 40 anni che lavoro. Quando faceva i comizi, che io ero un ragazzo, ero più giovane, insomma, più o meno qualche anno più di me, ma comunque ho seguito, io elettore di centro-sinistra, sì. Veramente. Potrei fare un copia e incolla con quello che ha detto l'ascoltatore prima di Genova. Quindi, quando lui ha fatto i comizi, cioè, l'ha messo nel culo a tutti quanti, a tutti quelli che ci credevano. No, ma ha ragione lui, perché è uno che si oppone alla riduzione del 10%. Continua. Prendelo con come... i forconi andrebbe andato a cercare a casa, visto? Con i forconi. Cioè stiamo parlando di 200 euro, eh? Ma ho capito, cioè, appunto per questo la gente si incazza, perché se uno... la dimensione delle cose... 40 anni che lavoro, non so quando andrò in pensione... Ma quello anch'io, ma che c'entra questo? Vergogna, con i forconi lo andrò a cercare a casa. Anch'io non so se andrò in pensione, con quanti soldi andrò in pensione, ovvio, che discorsi sono. Adesso dai, non sta a fare discorsi. Ma amico mio, guarda che io stesso. Allora, ogni poco, scusa. Io pure non so quando andrò in pensione. Ogni poco, lo ospitate, va bene, lo ospitate con da voi. Poi è sulla Rai, è sulla Sette, non so. E difende una battaglia a spada tratta. C'è la gente che muore in fame. Esodati, è questo che ha fatto i comizi, ma quando la gente lo andava ad ascoltare, e che doveva pensare? Questo fra 20 anni ce lo metterà nel culo, bene. è passato dalla rivoluzione, dal sogno della rivoluzione alla battaglia per il 10% del vitalizio. Ragazzi, dai, su, forza, dai. Io sono di centro-sinistra. Ma non è questione di centro-sinistra. C'è un pezzo di Morta. È un pezzo di? Un pezzo? Lo ricordo il forcone, lo ricordo. Pezzo di? Non ci venga a Prato. Ma pezzo di che? Non ho capito. Di Morta, fango. Ah, è che ne so, Morta, ho capito. Esagerato. Maurizio, Bologna. Ciao Claudio. Maurizio, vai. Ciao, buonasera. Vai, vai. Mi è incazzato come una iena. Ora io darò del ladro a Capanna, perché lo è, e sono disponibile a dare anche il mio indirizzo per essere querelato, perché sarei ben in privato, lo posso dare, non c'è problema, se glielo volete dare a questa vabbè testa. Adesso vediamo, insomma, adesso non anticipi la situazione, cioè, non si metta nei guai subito. No, lui è veramente, io ho 44 anni, ho un bambino di 5, mi sono rotto il cazzo di questa gente di merda che va a fare questo democrazia proletaria, viene da democrazia proletaria, questo pezzo di merda non vuole rinunciare a 200 euro inventandosi la troiata che ci crede solo lui e quei coglioni, io anche voi Cruciani, cazzo, ma sta gente va mandata a fanculo. E che devo fare? Prima, No, lo devi mandare a fanculo. Ma ho capito, Maurizio. Testa. Lui è una testa di cazzo, non ha diritto neanche di parlare. Quello dovrebbe finire dove andava in piazza a fare i suoi bei comizi di merda. Vabbè, nel adesso, 68. Adesso non è che lo possiamo impiccare, dai. Come, ma porca troia, ma non possiamo, ma l'Italia, puttana di quella troia. E mio figlio, cazzo, io stesso, ma a me non me ne frega un cazzo, io so che non prenderò la pensione, non me ne fotto un cazzo, non faccio la demagogia di dire cazzo ci ha rubato i soldi, ma questa gente è la gente che ci ha portato nella merda in cui sfora, e gli diamo spazio. Ma adesso come fa? Ma come fa a dire che la colpa è di Parenzo l'appoggia, Maurizio, e Parenzo l'appoggia, e Parenzo l'appoggia. Ma no, ma io gli io le sto dicendo semplicemente, vai a fanculo, tu non mi rompi le palle. Io ho detto semplicemente, io ho detto semplicemente che non saranno quei 200 euro di Capanna presi ad esempio del male assoluto a averci ridotto. Mai quelli non si sono merda, uno come Capanna con le battaglie che ha fatto di democrazia proletaria dovrebbe fare un bel gesto e dire ok ragazzi scusate ho sbagliato porca troia rinuncio, che anziché trincerarsi dietro alle cagate che dice, ma andate a fanculo, io per l'amor di Dio sono un privilegiato, sono un quadro di una multinazionale, guadagno bene, non mi lamento, ma porca troia, ma c'è gente che a 35 anni vive di precariato, non fa un mutuo, non fa un cazzo, no, e questo pezzo di merda va in televisione a fare il fenomeno, ma delle randellate in faccia deve prendere questo figlio di una troia, delle randellate in faccia. Il problema pazzo, principale, ma perché questo pazzo? È uno incazzato nero, questo ha ragione a essere incazzato nero. È semplicemente pazzo, randellate in faccia. Guida pure una multinazionale, ma io mi spavento a dirlo così. Di gente di merda, mi sono rotto il cazzo. E questo sarebbe un manager di una multinazionale. Ma io mi spavento per questo. Mi sono rotto il cazzo. Ma a me spaventa quello. Ha ragione Maurizio. Mi sono rotto il cazzo, non me ne frega niente. Cosa c'entra essere un manager di una multinazionale? Siamo alla follia. Capanna siamo. È un politico. Cos'è Capanna? E lei sarebbe un manager di una multinazionale, ma dai, mi faccia su, ridere, Capanna è uno che non ha fatto niente nella vita, ha fatto il politico. E va ma bene. Dai, ma Parenzo, prende, ma Parenzo, dovrebbe ma scusa, prendere, ma dovrebbe prendere una polemica. Dovrebbe prendere una polemica. Dovrebbe prendere. Rispetto, la penso in modo Maurizio, diverso, aspetta un attimo. Rispetto. Aspetta, ma Capanna. Capanna già dovrebbe prendere. Allora, fermi tutti, fermi. No, fammi replicare. Sì, aspetta, adesso ti faccio replicare. Allora, Maurizio dice una cosa, al di là di quello delle parole che ha usato, e giustamente è incazzato, dice una cosa molto semplice, che già Capanna dovrebbe baciare per terra per il fatto che prende un vitalizio per avere fatto il parlamentare europeo, il parlamentare italiano, eccetera, eccetera. Dovrebbe baciare per terra il fatto di prendere 5.000 euro al mese, che è tanto rispetto ai soldi che ha versato rispetto agli altri cittadini. Vabbè. Chiaro? Chiaro, dovrebbe già baciare per terra. Non solo non lo fa e dice di non essere un privilegiato, mentre è un privilegiato rispetto ad altri e insieme agli altri. Ma non vuole nemmeno rinunciare al 10% che gli dice la regione Lombardia. È questo che fa incazzare Maurizio. O sbaglio, Maurizio? O sbaglio? Al di là che io possa essere, io sono d'accordo, sono incazzato. Ho sbagliato, sbaglio a fare così. Sono incazzato. No, beh, non sbaglio. Ti garantisco che ti garantisco che normalmente non sono così, ok? E hai ragione, faccio il manager di una multinazionale e mai mi permetterei di fare così. Va bene, ma eri incazzato e giustamente ti sei sfogato, okay? Giustamente ti sei sfogato. Però togliti il panno, togli, io la penso diversamente da te, Parenzo, non sono quasi mai d'accordo con quello che dici, però è giusto che tu lo dica, è sacrosanto che tu lo dica, però non puoi non dirmi che non sei indignato di fronte all'atteggiamento di uno come Capanna, perché non ti capisco. Cioè, ma come sì, fai? Ma questo, certo, ma che significa? Ma non puoi prendere il caso di Capanna, che stiamo parlando di 200 euro e farlo diventare no, il caso no, dove in assoluto no, c'è il tema della sono tutti perché d'accordo. È una stupidaggine. È che tutti quelli che fanno cazzate in Italia dicono ma non potete prendere il mio caso, però sono milioni che fanno cazzate, che ce la mettono nel culo continuamente, sono milioni di gente che se ne approfitta, che rompe i coglioni e che passa impunita, va in TV esposta e dice che siamo dei demagoghi, esposta continuamente il punto di vista, sposta la discussione, ci siamo rotti i coglioni, io personalmente non ne posso più di sta gente e la volta che posso dargli, ma ti giuro do il mio indirizzo, ma venisse a querelarmi Capanna, porca puttana, almeno lo posso mandare a fanculo di persone in tribunale, ma lo farei più che volentieri perché mi vergogno di gente così ha rotto i coglioni. Ciao Maurizio, ciao. Ciao, buona serata. Ciao. Berlusconi dice che c'è un pericolo autoritario. Il signor Berlusconi. Sì, ho visto. È venuto meno il nostro sogno di un progetto condiviso ed anzi, per come si sta delineando la nuova legge elettorale, noi avvertiamo il rischio che vengano meno le condizioni indispensabili per una vera democrazia, che ci si possa avviare verso una deriva autoritaria. E non era questo il patto del Nazareno che volevamo. Sì, Berlusconi che parla di deriva autoritaria è una cosa veramente comica, da ridere, da morire dalle risate. Cioè Berlusconi che parla di deriva autoritaria di Renzi. Adesso si possono fare tutte le critiche alla legge elettorale, alla riforma del Senato, ma la deriva autoritaria pronunciata dal signor Berlusconi è una cosa comica, da mettersi a ridere, signori, da mettersi a ridere. Abbiamo con noi, beh, Parenzo, un senatore, il quale si definisce oggi stabilizzatore. Cercheremo di capire cosa significa, perché la gente, secondo me, non ha capito una mazza. Stabilizzatore una è quello mazza, che usano mazza, i muratori, è presente i muratori perché con la bolla per vedere come stabilizzatori sei in bolla. Sarebbero quelli che in teoria dovrebbero assicurare a Renzi la maggioranza fino al 2018. Questo signore si chiama Paolo Naccarato. Buonasera, senatore Naccarato, come va? Buonasera a voi. Come andiamo? Sopravviviamo discretamente, grazie. Credo. Allora, signor Naccarato, vogliamo elencare con dovizia... Però gli stabilizzatori, chiedo scusa, non li utilizzano i muratori. Chi li utilizza? Vedo che nessuno di voi due ha mai avuto esperienze marinare. Gli stabilizzatori sono dei dispositivi che sono montati sulle navi, sì, per far sì che le navi possano navigare con marosi, rullii, ondeggiamenti di vario tipo, per tenere stabile la nave. Sono dei dispositivi veri. Dispositivi. Ecco, io ho mutuato questa idea pensando che ci sia al Senato. Un'area, sì, abbastanza consistente di stabilizzatori che non hanno nulla da trattare con chi che sia, sì, ma che vogliono che le riforme vadano avanti e sì, certo, vengono completate. Però scusi, senatore Naccarato, lei ha esperienza di mare o no? No. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Dunque lei ha mutuato dal mare, dall'esperienza marinara, questa espressione, gli stabilizzatori di Renzi. Sì, che esistono davvero. Lei vada su Google e vedrà. No, che... vado, carità, certo, vado assolutamente. Però io quello che le volevo chiedere è un'altra cosa. Vogliamo elencare ai nostri ascoltatori come è arrivato lei a diventare stabilizzatore? Diciamo. Esatto, Parenzo le definisce migrazioni. Lei è stato eletto sì, al Senato in sì, quota Lega, diciamo la verità, nelle liste della Lega, no. È tutto vero. Della Lega, vedi, no. Guarda, posso interloquire? Dimmi, certo, siamo io, qui. Io con la mia coscienza sono assolutamente, io sono un democratico, certo, cristiano. Ma che c'entra? Io sono un democratico cristiano di rito cossighiano, mai pentito. Mi sono mai più iscritto ad alcun partito politico. Ho capito, però, in tutti questi anni. Sì. Quindi resto ancorato a quella tradizione. Ma quella tradizione, per uno che ha la mia formazione, ha un solo primo grande comandamento, che si chiama l'interesse generale del paese e il futuro dell'Italia. Però, no, non è che dicono tutti senatore così. Naccarato, purtroppo non lo dice più nessuno. Sì, però, senatore lo Naccarato, dicono vindamente. Lei è una persona molto simpatica, però... ma io non aspetti. Sono simpatico, cerco di essere coerente innanzitutto con me stesso. Ma lei è stato eletto con la Lega, è stato eletto grazie a Maroni alla Lega al Senato, non è che è lì per caso, senza quei voti lì della Lega per conto del signor Tremonti, lei non sarebbe al Senato, non mi faccia arrabbiare, almeno questo bisogna ammetterlo. Prima di tornare col senatore Naccarato, caro Parenzo, vogliamo ricordare con un sorriso e senza pianti, perché magari li faremo, ne abbiamo già fatti, un amico che se n'è andato venerdì scorso in maniera drammatica, tecnico di questa radio, uno di questa radio senza specificare, Fabio Cantadori, da molti era conosciuto come Rudy. 41 anni, e dico solo 41 anni, lo ricordo perché secondo me in questo momento starà cercando non so dove la sua Formentera dei cieli, andava sempre in quell'isola meravigliosa, grande tifoso del Milan, vabbè, insomma, scherzavamo, ridevamo su ogni cosa del calcio, era un grande, soprattutto perché era una persona disponibile. E ricordiamo, lo ricordiamo noi qui alla Zanzara, lo conoscevi anche tu, Parenzo, nonostante come il fatto no, che certo. Perché ci ha accompagnato anche in un sacco di trasferte. Di trasferte, certo. E, lo ricordiamo perché fece un'intrusione qui, perché io ogni tanto mi incazzo che non funziona niente, vero, no? È vero, il computer non funzionava. E armeggiava sotto il tuo. A un certo punto venne entrato qua dentro, perché ogni volta che serviva qualcosa lo chiamavo incazzato, io come una bestia. E lui con calma, in diretta, veniva qua sopportando le mie incazzature eccetera, e sentiamo cosa accadde, non mi ricordo quando era boh, 3-4 mesi fa. No, la stagione quella passata, dici? Sì. Vabbè, comunque non ha importanza. C'è un gentile tecnico, il mitico Rudy, che è qui accanto a me, che mi sta aggiustando il computer qui accanto, che non funziona. Non funziona un cazzo, amico mio, un cazzo. Ma passano in onda. Ma che passi in onda, Rudy? Che cos'è che non va in questo computer? Dimmi, cos'è che non va, Rudy? Lo capiamo, Giuseppe. Stai cercando di capire questo computer? No, questo computer. Non diciamo le parolacce, io non le dico. Tu non le dici, le dico io, non ti preoccupare. Perché non funziona mai una mazza? Perché? Perché, amico mio, perché tutto pieno di anelli qui, pieno di anelli. Beh, grande. Altro che grande cacciatore anche lui, signor Rudy, altro che Sgarbi, chiamatemi Sgarbi, va. Tanto TG3, poi Sgarbi, grande cacciatore pure lui, numero uno, Parenzo, tu non lo conosci, Rudy, beh, siamo al top, siamo al top, donne che cascano ai suoi piedi. Vabbè, dai ragazzi, è così, dai. Rudy, sei un grande, vai, ti abbraccio. Senatore Naccarato, allora, lei, questa cosa non è che ce la possiamo scordare, è stato eletto con la Lega, è stato eletto con la Lega, lei è al Senato grazie a Salvini, grazie a Salvini, no, a Maroni, vabbè, uguale, non cambia, Calderoli anche. Vabbè, ho capito, gente che adesso sta all'opposizione ferrea del governo Renzi, che lei sostiene. Allora, io non mica ero un militante della Lega, mica ero iscritto della Lega. Peggio ancora, mi sento. Scusi, però... No, non si senta peggio. No. Io sono coerente con la mia tradizione, con la mia formazione. Ma come? Qual è la tradizione? Ma perché si è fatta eleggere con la Lega? Perché Tremonti ha chiamato Maroni e ha detto... No, perché abbiamo... Gliel'ho già spiegato un'altra volta in trasmissione, vedo che lei ha poca memoria. No, ma spieghiamolo, perché poi lei con ha fatto l'anzianità altre... forse non si ricorda più le cose che diciamo. Abbiamo fatto un accordo politico una volta, sì, e noi siamo Tremonti e io siamo entrati nelle liste e abbiamo fatto la campagna elettorale. Ho capito, frutto di un accordo politico, ma sempre con la Lega, una convergenza Però se ci parliamo addosso, no. Se volete rifare come avete fatto prima, che uno parla addosso all'altro, non si capisce no, niente. No, però scusi. I suoi radioascoltatori cambiano canale. No, no, però scusi, Naccarato, il punto fondamentale è questo. Lei è stato eletto grazie ai voti della Lega, giusto? Sì, sì, ma questo dei suoi, di questo ai suoi radioascoltatori, ma... che abbiamo già spiegato tante volte, mi creda, non gliene frega. Ma come fa lei a dirlo, cosa importa? Perché poi... dico con comunque... i cittadini vogliono sapere come adesso vabbè, il Parlamento, quello... il governo, come gli risolve il problema. Ma la gente adesso se vuole divertire. Ah, vabbè, ma se lei mi parla addosso io non... Senatore Naccarato, però spieghiamo una cosa. Lei è stato eletto nelle liste con un accordo politico nelle liste della Lega. Dopo è andato al GAL, giusto? Sì, dove sono tuttora. Tuttora, cioè GAL che vuol dire poi? Spieghiamolo. Gruppo? Grande, è un gruppo parlamentare che si chiama Grande Autonomia e Libertà. Poi ha avuto un passaggio con Alfano, NCD, o sbaglio? Anche. Confermo pure. Quando si trattò di salvare il governo Letta. Lei vuole salvare sempre i governi comunque. Io sì, perché sono io ho a cuore gli interessi del paese. Ma lei a cuore... e per me in questo deserto della politica, deserto, dove i partiti politici non esistono, sì, salva più, anche la sua poltrona, che se ne dica esiste il governo, no, sì, che deve governare e deve risolvere problemi invece di fare chiacchiere. Però esiste anche il salvataggio della sua poltrona, oltre a quello del salvataggio del governo. Permetto. In contemporanea. Guardi, le poltrone sono ben poca cosa rispetto ai rischi che corre il paese. Beh, insomma, Naccarato, stare in Parlamento. Beh, insomma, guardi, lei se non interrompo ogni 10 minuti a fare la pubblicità, la radio non campa. Ecco, il paese è un po' così. Cioè? Bisogna che il governo governi e che faccia quello che deve, perché se no i cittadini non riescono a tirare avanti. Ma lei era stato eletto per essere all'opposizione del Partito Democratico. Ma lei è noioso, però. Ma allora, anche io non sono stato eletto per essere. Io sono filo governativo per definizione, come... per tradizione. Ma però, scusi, per cultura, chi mi conosce lo sa. Lei è sempre dalla parte del governo, sempre. Questo suo modo di dire, perché è contro la storia mia personale. Lei è come Razzi e Scilipoti, le dico, Naccarato, è come lei Razzi e Scilipoti. Ma perché si offende? Perché si offende? Scusi. Perché io sono due persone degnissime, ma loro hanno quella è una vicenda che appartiene ad un'era che non esiste più. Ma anche loro erano dalla parte del governo, hanno votato per far sopravvivere il governo Berlusconi all'epoca. Lei sì, adesso però la vicenda è andata un po' diversa. Beh, sì, però grosso modo anche loro sono filo governativi. Neanche lei, sempre, grosso modo, se lei non sa, oltre ad avere grandi amnesie, vedo che non rilegge più neanche la cronaca recente dei fatti così come sono accaduti. Senatore Naccarato, lei è però fenomenale. Però è inutile che gliela spiego, perché veramente se no rimaniamo 4-5 a sentire questa trasmissione stasera. Ecco appunto, no, la cosa fondamentale però è questa, Naccarato, che lei è sempre dalla parte dei governi, è governativo per definizione. Sì, sì, per io sono governativo per definizione, chi mi conosce lo sa. Vabbè, chi... lo sappiamo. Vabbè, sì, però cioè... non è una cosa così positiva. Ma Renzi, secondo lei che cos'è, un genio, Renzi? Renzi sta dimostrando di essere un politico di grandissimo spessore. Grandissimo spessore, quasi come Cossiga, no? Quello è inarrivabile, per carità. Insomma, no, insomma, sulle orme di Cossiga, sulle orme di è stato un grandissimo. Renzi sa che per me è il maestro con la M maiuscola. Per cui è un ma lei ci parla con può Renzi? Essere, beh, guardi, c'è una similitudine che gli ho fatto una volta. Qual è? Cioè, lui che è il rottamatore per definizione, non ci poteva. Se non ci fosse stato il picconatore, sì, non ci sarebbe stato il rottamatore. Cioè il picconatore, il rottamatore è il, come dire, l'erede del picconatore. Sì, il picconatore è il nonno del rottamatore. Sì, vabbè, d'accordo. Io mi però... ricordo che quando chiamavo ogni tanto Cossiga in passato per fare delle interviste, tanto sì, tempo fa. Però adesso non parliamo di Cossiga, sono veramente la gente. No, ma telefonavo e mi diceva deve parlare con il colonnello Naccarato. Quello che fa con me. E io dicevo, ma perché? Perché è un carabiniere e conosce tutto. E il colonnello Naccarato è lui che sa tutto. E ogni volta c'era questa figura mitica. Però, di Naccarato. Naccarato, lei è pazzesco, perché riesce a far passare la sua, come dire, sì, adesso, elezione con la Lega in quota Tremonti, no, Lega. No. Poi il passaggio perché, all'UDC, all'NCD. Guardi, gli amici della Lega sono delle persone straordinarie. Per lei Salvini cos'è? Un demagogo? Un filibustiere? Cos'è? No, assolutamente. Pure a favore dei Salvini. Salvini è un po'. Salvini è un politico acuto che ha trovato una chiave precisa di comunicazione, sì, cioè la politica delle cose concrete. Poi indipendentemente se uno lo condivide o meno, ma lui, sì, ha indovinato il meccanismo attraverso il quale comunicare direttamente con i cittadini. Vede che lui sta sempre sui temi e fa bene, e deve incalzare il governo Salvini come le altre opposizioni. Naccarato, temi concreti, ho capito, perché la gente vuole risposte, basta con le chiacchiere, basta. Ho capito, Naccarato, però non può fare più parti in commedia, amico mio. Ma polemiche così sterili, ma che polemiche, dovete incalzare la politica. Ma scusi, ma le pare normale? Le pare normale che seri, ma le pare no? Vabbè, ho capito, Naccarato, le pare normale che Renzi diceva nel 2010, nel 2011 che chi passava dall'altra parte era una specie di che doveva dimettersi? Perché non si dimette lei, che è stato eletto con la Lega, adesso è a favore di Renzi? Solo diciamo, le persone poco intelligenti non cambiano mai idea. Ah, solo le persone poco intelligenti non cambiano. Cioè, lei dice chi resta sempre nello stesso partito è un cretino, sostanzialmente. Ma insomma, il pensiero umano, sì, è fatto per evolvere. E naturalmente, anche per... è fatto per evolvere in maniera positiva, cioè chissà perché non deve cristallizzarsi in dei convincimenti. Non sono una cosa sono i valori, una cosa è l'etica. E questo queste sono, come dire, non trattabili sotto, sì, nessun. Per il resto ognuno si comunque fa le proprie valutazioni e mutua le situazioni a seconda di come si svolgono. Comunque me lo dica chiaramente, lei eletto, ripeto, sempre nella lista della Lega, considera Renzi praticamente un fenomeno della politica. Renzi sta dimostrando di tenere la barra dritta della nave, cui io cercherò di fornire sempre di più questi stabilizzatori per farlo arrivare alla meta, con una rotta dritta e senza scossoni. Anche non cada il governo. Anche Marosi, importanti se è necessario, ma cercando intanto di conseguire. E intanto la poltrona viene conservata, la sua poltrona è sicura fino al 2018. Ma perché la sua non è sicura fino a quando il sole 24 ore, mi scusi. La mia no. Sì, anche la sua. No, la mia no, forse un po' di più di quella di Parenzo, un po' di più. Vabbè, dire? Ma che c'entra? Mica... Eppure lei lavora tutti i giorni, giustamente si fa il mazzo. Ma scusi, no? Naccarato, ma mica mi dai i soldi allo Stato a me, a lei gli dà il pubblico i soldi. No, mica... no, ma certo, ma voglio dire. Ho capito, ma ci sarà una differenza. Il fatto che, insomma, è tutto. Ma come è relativo? No, relativo caso. Dove è seduto? L'importante è lavorare, fare cose. Ho capito, fare cose. Ma non è che si possono fare cose con chiunque, con la maggioranza, con l'opposizione, con tutti. No, alternativamente. Con la maggioranza, perché le cose vanno fatte con la maggioranza, bisogna governare. Scusi, bisogna... ma Maroni, quando l'ha candidata, le sapeva queste cose? Beh, Maroni mi conosce da tanti anni. Lo sapeva che lei è comunque filo governativo sempre, comunque. Beh, immagino di sì. Non glielo ho mai chiesto, ma immagino di sì. Vabbè, comunque, guardi, Naccarato, lei è talmente stabile, come dire, talmente ferro nei suoi convincimenti che è difficile farle cambiare idea. È difficile. Ma non è che devo. Ma guardi, io sono della Democrazia Cristiana. Ma scusi, non mi sono mai più non c'è più, ma è morta la Democrazia Cristiana, è finita, morta. Non pentito, mai pentito. Ma è morta. Io sono orgoglioso di aver eletto Mattarella al Quirinale. Vabbè, ma quello, vabbè. La cosa mi ha veramente fatto riempito di gioia. Ma quello pure Vendola sta orgoglioso. Lei ha visto che io ho messo la cravatta dei quattro gatti il giorno del... Che sono era la cravatta gatti? Che Cossiga fece fare in occasione del governo D'Alema Mattarella, perché però Mattarella fece il vicepresidente del Consiglio. Naccarato, lei è come Scilipoti e Razzi. Però lei, vedo che lei con la storia fa cazzotti. Ma no, guardi, non faccia cazzotti. No, lei guardi, bocciato in storia. Lei non Naccarato, lei è come nella cronaca. Lei è come Razzi e Scilipoti, questa è la realtà. No, non se ne vuole fare una ragione, ma lei è come Razzi e Scilipoti che stabilizzano il governo, loro stabilizzano. Lei è proprio bocciato. Vabbè, adesso storia. Lei vuole qui al mio fianco c'è colonnello Naccarato. La vuole buttare in caciara, la vuole buttare in caciara. Lei è ripetente, mi creda. Lei la vuole buttare in caciara, la vuole buttare in caciara. Si ripassi. È come Razzi e Scilipoti, è come Razzi e Scilipoti. Naccarato come Scilipoti e Razzi, Naccarato come Scilipoti e Razzi, e lei ha detto che si vergogna, non capisco perché. Mi pare che lei sia veramente modesto quando la butta modesto, bello. E soprattutto non è carino con Razzi e Scilipoti che non sono in no, ma io mica io lo dico però in senso. Grande insulto è lei che ha detto che si vergogna, io mica lo dico. Lei è dal punto di vista della storia un asino. Ma, ma qual è la storia? Lei non conosce la storia. Ma qual è la storia? Quale storia? Ma quale? Ma di quale storia parla, amico mio? Dopo che ha studiato, ma però vada. Ma qual è la storia? Si faccia insegnare la storia di quegli anni. Approfondisca, lenta, sì, ma che c'entra con la sua elezione con la Lega, però? Ma qual è la storia? Qual è la storia in questo caso? Non riesco no, a capire. Guardi, è inutile. I suoi radioascoltatori, se lei li lascia parlare, vedrà che ne sanno molto di più. Ma qual è la storia che non conoscerei? La sua posizione è così strumentale. Ma che è strumentale? Lei è come Cipoti. Che veramente mi sembra. A cui protest, cioè a cui protest? Che cos'è questa? Un'intervista, un'aggressione? Ma che aggressione? Le dico che lei un esercizio di ignoranza. Ma che ignoranza? Tua, adesso lei se l'è presa per lei non se la dovrebbe prendere, perché io la paragono a Scilipoti a Razzi. Dovrebbe dire sì, è vero. Anch'io come loro appoggio ho deciso di appoggiare il governo, punto. Va bene, complimenti a lei. Va bene. Io non ho deciso di appoggiare, io l'ho sempre appoggiato. Vabbè, uguale, non è cambiato. No, non è uguale. Ma è stato eletto, è stato eletto in un'altra formazione politica. Senta, però. Ma lei da c'è o ci fa? Mi scusi. Tutte e due. Complimenti. L'abbraccio. La prossima volta allora la candidiamo al Parlamento. L'abbraccio, magari sicuramente farei meglio di tante altre persone, guardi, non c'è dubbio. No, Naccarato. Ma lei ci deve pensare, tutte e due vi dovete candidare, che secondo me se venite in Parlamento. Se fate una rivoluzione culturale. Tanto materiale, ragazzi, tanto materiale per Italia, paese di merda. Lasciatemi cantare. Questa Italia è un'Italia di merda. Con la chitarra in mano. L'ho sempre detto che questo è un paese di merda. Lasciatemi cantare. È uno stato di merda che andrebbe processato. Sono un italiano. Questa è la merda d'Italia. Sono un italiano. C'è un'Italia di merda. Lasciatemi cantare. Con la chitarra. Allora, ragazzi. Sentite, Parenzo, sono indagati dalla Procura di Roma per truffa ai danni dello Stato. Sono indagati dalla Procura di Roma per truffa ai danni dello Stato, poi vedremo come andrà a finire. I 36 piloti aerei che percepivo, vorrei conoscerli uno per uno questi qua, perché queste cose mi fanno impazzire. 36 piloti aerei che percepivano l'indennità prevista dalla cassa integrazione, benché lavorassero regolarmente per altre compagnie all'estero. E lo sai quanto guadagnavano questi? Cioè prendevano la cassa integrazione in Italia pagata da noi. E lavoravano per... Spesso erano gente che era andata via dall'Italia con cassa integrazione di 7 anni, una vergogna per qualsiasi altro lavoratore. Nella trattativa per mandare via la gente dall'Italia hanno dato una cassa integrazione di 7 anni alle persone, cosa che non se la sogna nessuno, però siccome era l'Italia hanno dato un sacco di soldi anche a piloti, impiegati, eccetera eccetera. Questi prendevano uno stipendio tra i 13 e i 15 mila euro al mese già in altre compagnie, ma continuavano a percepire l'indennità della cassa integrazione. Che vergogna. È un paese di merda. Oh, che succede nella vicenda del benzinaio? Innanzitutto ha ricevuto la scorta, tanto perché non ci sono pericoli in Italia, no? Ha ricevuto la scorta. Vabbè, questo l'ha ricevuto il prefetto. E la famiglia rom del tizio che è morto dice che esige giustizia, pretende giustizia. Cosa vuol dire? Non si capisce. Cosa vuol dire pretende giustizia? Deve essere fatto tutta la chiarezza possibile. Che ci sia un giusto processo nel quale si verifichi la dinamica di quel che è accaduto. Innanzitutto visto che uno è morto, doveva un bandito. Dire siamo spiacenti, ci vergogniamo per il nostro congiunto, il quale pistola Beh, però, in pugno, ecco, questo, scusami, pistola però. In pugno, no, però, ci vergogniamo ecco, per lui chi, perché pistola Capanna, in pugno. Stai facendo della disinformazione. No, Giletti, la famiglia Corrucciani con no, 4 ma R. No, ma scusami. La famiglia del sì, no, de, ecco, la famiglia del signore La famiglia del delinquente, la famiglia delinquente, io lo chiamo delinquente. Vergogniamo, no, noi ecco, ci vergogniamo. Ecco, scusami, ma guarda che incredibile. La famiglia del delinquente, quello è un delinquente, un Benissimo. Ladro delinquente. Dovrebbe dire ci delinquente. Vergogniamo del fatto che era pistola la in pugno. La famiglia, però, non saranno tutti. Non è che se uno è un delinquente, tutta la famiglia è delinquente, o non lo so. Ma in genere, c'entra? Non è che per proprietà però transitiva. Dovrebbe dire noi ci vergogniamo per il fatto che un Quindi nostro parente dopodiché era hanno pistola uno in che pugno è morto, a rapinare no? una gioielleria. Ma non c'è dubbio. Ci vergogniamo sicuro. Per questo. Vogliamo che sia fatta giustizia. Detto, vogliamo però che ecco, sia fatta giustizia. Questa cosa qui la direi con un po' in tono un po' sommesso. sommesso, un tono veramente un po' sommesso. Comunque hanno dato la scorta per motivi di sicurezza, chissà perché, forse perché qualche famiglia si vuole vendicare nei confronti del benzinaio, il signor Stacchio, signor Stacchio. Sentiamolo, sentiamolo. In an hour's time. Se avessi sparato per uccidere, non avrei sparato una gamba, perché quel fucile lì è un fucile d'alta precisione. Se avessi voluto ucciderli, li uccidevo tutti quelli anche che erano vicino alla banca perché erano sotto la luce. Se avessi sparato per uccidere, li avrei ammazzati tutti. E poi c'è il proprietario della gioielleria, Zancan, che dice: ci hanno invaso e noi ci difendiamo. Siamo stati invasi e lo Stato l'ha permesso di farlo. La gente gira col giubbotto antiproiettili di Kalashnikov, ok? E sono liberi di farlo. Noi ci difendiamo, perché noi non abbiamo fatto giustizia, ci siamo difesi, ok? Siamo solo difesi, perché quel signore dentro là ha salvato la vita mia e la vita di quella signora che è dentro lì, e adesso è indagato. Cioè, come si fa a affrontare il proprio lavoro con le armi in mano? Andiamo a Treviso, Albino. Non c'è. Paolo da Caserta. Sì, pronto? Vai, vai, Paolo, dimmi, dimmi. Sono incazzato come la bestia, ma come la bestia? Perché a differenza del manager della multinazionale, io sono un precario della generazione dei trentenni, e sentire le cazzate che dice Capanna è una cosa veramente indecorosa. Al netto dello show del teatrino che ha messo su Giletti, vomitevole anche quello, ma voi vi rendete conto che uno come Capanna, c'è uno che ha seminato stronzate per il 68, che ha cianciato di rivoluzione culturale, di Mao Zedong, tutte quelle stronzate, si permette di dire una cosa del genere? Cosa non è c'entra? Solo lui, non è solo lui. Vi ricordate Caruso ai vostri microfoni qualche giorno fa? Quello ne è un altro. È un altro che l'ho conosciuto bene a Napoli all'università, un picchiatore, un violento, che ora fa il docente universitario. Che fa il docente universitario? Sì, sì, certo. Tutti i rivoluzionari alla fine finiscono per fare i borghesi. Cioè, secondo te un povero ragazzo che è preparato fa quello che ha fatto Caruso? Vabbè, ma no, al di là di Caruso, eccetera, che cosa è che rimproveri a Capanna, Paolo? Non ho capito. Che cosa rimprovera a Capanna? Lui dovrebbe prendere il suo fottutissimo vitalizio e darlo alla nostra generazione, che è in giro per l'Europa a cianciare, a predicare un lavoro, che sappiamo le lingue, abbiamo una laurea in 110 lodi, i master, e lui ciancia e si lamenta. Questa è la democrazia proletaria, ma mica lui, lui è proprio l'esempio, il simbolo dei danni che ha fatto il 68 alla nostra generazione. Non ha un cazzo di niente, lui, mica solo lui. Vogliamo parlare di tutti quelli, di Kelly, Lerner, i Liguori, cosa i Ferrara. Ma che c'entra? Non la gente che lavora. Adesso ma che c'entra? C'è gente che non ha preso un euro dal pubblico. Stiamo parlando di Capanna, che è stato nelle istituzioni, prende un vitalizio eccessivo. Dovrebbe sentirsi un privilegiato e stare in silenzio. Non ha fatto nulla per cambiare le leggi, quelle leggi lì che danno i vitalizi. Non ha fatto niente. E adesso si oppone perché dice di battersi per gli altri, per i diritti acquisiti, contro i potenti o contro quelli che vogliono togliere i diritti acquisiti. Si batte per il 10%, per 200 euro, dicendo che in realtà non li vuole prendere, ma vuole che questi 200 euro vengano dati a un fondo, e noi ce ne fottiamo del fondo, perché i fondi vanno a farsi fottere poi. Eccolo qui il 68. Noi siamo la generazione post muro di Berlino, che non se ne fotte un cazzo, ma lo sai il danno più grande che hanno fatto questa gente qui, Giuseppe? Qual è? Perché hanno riempito la nostra generazione di falsi miti che fingono di fare la rivoluzione in questa università, capito? Fingono di fare la rivoluzione scimmiottando i nostri genitori. Certo, il fatto, Parenzo, che oggi il fatto che oggi Capanna difenda la sua posizione citando le battaglie che faceva nel 68 è anche ridicolo, il punto è questo: nessuno si ricordava di Capanna del 68, ce ne fottiamo tutti di Capanna del 68, ognuno ha i suoi ricordi, le sue cose, ma che lui citi quelle battaglie lì come le stesse battaglie che sta facendo adesso per eliminare questa roba del 10%, esatto, dunque per tenersi il 10% o darlo a un fondo, chi se ne frega, mi sembra ridicolo. Ma cosa c'entra il suo passato per ma è lui che lo cita il suo passato. Lui sta lì in Parlamento per il suo passato. Non sta più, però è vero che per il suo passato è andato in Parlamento. Ma che c'entra? Ha fatto il laureato in filosofia. Non c'entra mai niente. Enrico da Brindisi, vai. Ciao Enrico, Brindisi. Il suo passato, è fondatore di Democrazia Proletaria. E allora? Il suo passato, era la sua vita politica, che c'entra il suo passato? Io, pronto, buonasera. Sì, dimmi. Mi sente? Sì. Per quanto riguarda Capanna e Giletti, io vorrei dire la mia. Cioè io Giletti lo seguo saltuariamente quando sono ospite di mia madre la domenica a pranzare e veramente mi fa subito digerire, cioè mi fa cagare Giletti, perché vabbè, a te ti fa cagare, a me per esempio non mi fa cagare, Giletti lo considero bravissimo, e dunque no, di che stiamo parlando? Per me invece ha uno strabismo ideologico antimeridionalista. Vabbè, ma io, ma che antimeridionalista? Ma qua ancora con questo antimeridionalismo, basta con sta storia, mi avete rotto i coglioni con sto meridionalismo. Poi lei è un altro dei neoborbonici, pure lei. Cruciani, lei è un coglione, siccome i coglioni sono due. Lei è neoborbonico, pure lei è neoborbonico. Lei è pure neoborbonico. Lei è un coglione, se la no, non sono neoborbonico. Basta con questi neoborbonici. Ma lei è un coglione perché è anche stalinista, perché non fa parlare per allora, ma non ho capito chi sono i neoborbonici. Ma che ne so, adesso poi ti faccio ascoltare una cosa. Innanzitutto non sono neoborbonico e anche se lo fossi non mi dispiacerebbe, ma non lo sono perché... Vabbè, non è neoborbonico, benissimo. Neoborbonico. Lei non può cercare di delegittimare chi tira fuori questi argomenti chiamandolo neoborbonico, perché io dico allora che lei è un coglione insieme all'altro coglione che ogni sera vabbè, si fa da cagare con questa storia. Secondo aspetto, sì, e lei nel mezzo cos'è? Se noi a due proposito siamo Parenzo, due sei andato al cesso o no? No, ti ho detto che ho preso, non dico il nome del farmaco, una no, cosa dillo che, pure chi se ne frega. No, perché il nome di un farmaco, ma che l'effetto è quello di cementificare. Cioè, questo farmaco, cioè non che, c'è la sciolta, c'è la cementificazione della merda. Bravo, esatto, si chiama, è un farmaco noto. Che ma vogliamo chiamare nome? Qualcuno, qualche medico? Adesso bisognerà sbloccare problemi intestinali. Chiamateci, medici all'ascolto, problemi intestinali per Parenzo. Ha cagato 5 volte e poi ha preso un farmaco per cementificare la cacca. Beh, è un farmaco noto, però. Vabbè, dillo che farmaco è. No, lo possiamo non dire. Si può dire il nome del farmaco. Di il principio, ti prego, di il principio. Il principio è questo qua, cioè devi immaginare. No, il principio attivo. Il principio attivo. Il principio attivo, adesso non so qual è, ma è quello di cementificarti, di chiudere, praticamente di rendere. Se c'è uno che si intende di queste cose, siccome gli è preso il cagotto, questa forse ma no, la... ma è normale, è una fase di stagione. Va bene, Enrico, allora che vuoi aggiungere? Ieri avevo 38, ieri ma, sera. Ma io sono venuto qua con 38, 38 e mezzo, ma mi stai facendo due coglioni così. Ma perché cioè, tu sei bacato mi stai facendo testa? Due coglioni così quando io sono venuto qua con 38, con 38 e mezzo, ma con 39 e sarò mancato due testa. Giorni in sei anni qui. Io amico me ne stavo mio! Lì tranquillo con la mia copertina, il mio tè caldo, i biscottini, pubblicità, ma che biscottini, ma sei diventato veramente un personaggio incredibile, dai, forse. Il plaid. Biscottini. Hai visto Pannella da come cosa? No? Da Mattarella. Andato a salutare Mattarella. Col codino era. Mattarella. Quello l'ha preso per matto, eh. Mattarella l'ha preso per sicuro, matto. Sicuro, non è nello stile democristiano, Pannella. È una cosa indegna la sua trasmissione. Che messaggio può dare una persona che parla da una radio dicendo quello che dice lei? Qualcuno mi dice, Parenzo, che dovrei approfondire il tema della Golden Rain, altrimenti detta Golden Shower. Golden Share abbiamo detto l'altra volta. Golden Share è un'altra cosa. Radio della Confiducia si parlerà di quello. Approfondiremo no? Il tema della pioggia dorata. Mi dicono anche che in America hanno pubblicato un libro molto interessante di una certa Leora Tannenbaum dal titolo I am not a slut, slut credo che si dica, no? Scritto slut. Cioè non sono, anzi sono una puttana. Cioè, eccola. Si sostiene che cosa? Che prima dei social media, prima dell'esistenza di Facebook, internet, quello che è, non esisteva ambiguità. Cioè quando qualcuno chiamava puttana una ragazza, insomma, era come se venisse insultata, molestata, eccetera. Oggi il termine slut, puttana, è il modo in cui ci si saluta tra amiche. Beh, cioè insomma. È diventato una sorta di saluto. Cioè se un'amica fa un'altra amica puttana, come io ho detto prima la settimana scorsa, che dire, no, che cos'è che ho sostenuto, che dire zoccola ad una donna, in realtà io lo faccio con gentilezza, facendole quasi un complimento. Beh, ho capito. Puttana oggi è una specie di complimento che si fa a una donna di bell'aspetto, ed è esattamente quello che volevo dire. Cioè io in realtà intendevo un'altra cosa, però comunque il principio è lo stesso, è un termine ormai diventato comune tra amiche, tra i teenager americani. A voi cioè... piace un mondo così? Beh, a me piace, a voi un, mondo piace così. Un mondo così. Perché a te non piacciono quelle che. Beh, no, se tu hai. Beh, no, a me piacerebbe che a un certo punto. No, tra ragazzi uno chiama: ciao puttana, come stai? Ma insomma, non è carino, però. Mamma mia, come sei retrogrado. Ma no, ma non è. Allora, il direttore del TG4, Emilio Fede. L'ex direttore del TG4, Emilio Fede. So che tu lo vorresti ancora alla guida. Beh sì, io vorrei ancora, beh, sarebbe un grande colpo secondo me. Sostiene la sentenza, la motivazione della sentenza, che lo ha condannato a 4 anni e rotte eccetera, che è certa la sua responsabilità per aver favorito la prostituzione di Karima El Marug, ammettendola ad arco, cioè avrebbe portato lui, pur non essendo consapevole della minore età della signora Ruby Rubacuori, l'ha portata lui ad arco ed ha favorito la sua prostituzione. È stato condannato a 4 anni e 10 mesi, questo un tempo fa, oggi sono uscite le motivazioni, per i reati di favoreggiamento della prostituzione di ragazze maggiorenni e di tentata induzione alla prostituzione di altre 3 ragazze. Una follia totale, l'ho detto più volte, una follia assoluta, fede come un pappone, e però la gente continua a chiamarlo, cioè le persone... persone comuni, no, ragazzi, continuano a chiamarlo. Ma com'è che hanno il numero? Io non lo so, perché Fede è una che dava i numeri di telefono così. Hanno preso il numero di telefono e continuano a chiamarlo e a insultarlo. Senti. Madonna, sta pronto? Ui, caro direttore, buonasera, come sta? Allora, di andare a fanculo la troia di tua madre. Ui, ma non l'ho neanche salutata. Ma te guarda un po' questo direttore. Ti ho detto da andare a cagare, tu e quella troia di tua madre. Ascolta, ascolta direttore. Sì o no? Ma quelle zoccole ce le portavi veramente allora? Ti rendi conto? No? Però uno, se mi chiama uno con quella voce, direttore, effettivamente è fastidioso, adesso al di là di tutto, no? Ma dai, ma scusa. No, io rido perché poi poveraccio. Ma sì, ma se mi chiama uno con quella voce, direttore, è fastidioso, però fastidioso. Come mancava di mio amore. Allora, chi c'era? Enrico da Brindisi, che vuoi, Enrico? Chiudi, vai. Pronto? Chiudi. Mi senti? Sai, chiudi, vai. Ah, devo chiudere, allora. No, dimmi. Allora. Ma perché anche ragazzi, se siete qualche medico, eccetera, chiamate, così Parenzo sa quello che deve fare. Ha cagato 5 volte e ha preso il solidificante che sarà l'Imodium o cose di questo tipo. Io la posso dire, ma che me ne frega a me di questa storia della pubblicità? È tutta, ti pare che l'Imodium ha bisogno di fare la pubblicità? Dai. No, ma non voglio. Enrico, dai. No. Ma va bene, allora, stavo dicendo, Cusani, mo, pacatamente, ma perché ogni volta che parliamo di questi argomenti lei deve essere stalinista e non fa parlare le persone? Mi dice. Ma io guarda. No, mi devi far parlare. Ma dimmi, però. Vai, parla. Sì. Allora, il. Gli eccidi di Fenestrelle, il fatto che durante il risorgimento ci sono stati milioni di meridionali che sono stati uccisi, è vero, non puoi negare questa cosa. Basta, l'eccidio dei meridionali, l'olocausto dei meridionali. Basta, non esiste nessun eccidio di meridionali. Basta, bastardo, quando te lo dicono, bastardo. Bastardo, quando Enrico, te lo dicono, ma vatti a ricoverare, vatti a ricoverare tu e queste stronzate qua dei neoborbonici, finisci. Ma finisci nei neoborbonici. Ci sono. Ma fatti ricoverare. Tu puoi parlare solo le persone ma che ma fatti ricoverare. Ricovero. No, tu sei uno stalinista. Neo, e sei una cosa vergognosa perché neo, sei anche un giornalista. Ecco, borbonici. Vai, vai, vai. Filetti e tutti gli altri. Ma sono questi neoborbonici? Stalinisti, sì. Associazione culturale neoborbonica. Voi tradizionate la realtà perché i numeri stanno là. Okay. E voi raccontate un'altra storia alle persone. Gaeta, sì. Venerdì 13 testa febbraio. Di cosa? Testa di cazzo, di la verità quando sei in diretta, testa di cazzo, sì cosa? Ma di che stai parlando? Eh? Di cosa stai parlando? Ma di cosa stai parlando? Cosa sto parlando? Ma di che parli? Di cosa parli? Amico, fammi parlare che ti spiego. Testa di cazzo, ti faccio gli schemini, testa di cazzo. Fai gli schemini, così ti sfogli un po'. Così stasera non picchi tua moglie, vai. Gaeta 2015. Così io ne ho fatte 3. Così stasera non picchi mia moglie e tua sorella, pure. Ne ho fatte 3. Hai fatto la tris, hai fatto la tris. Testa di cazzo, la tris. Fammi parlare. Hai fatto la tripletta. Con gli schemini, hai fatto la tripletta. No, spiegami la tripletta che hai fatto con tua moglie. Sì, due pomeriggio con mia moglie e una ieri sera con tua sorella, te lo spiego di nuovo. Quello è impossibile. Ma dimmi la tripletta che allora, hai fatto, poveraccio. Fammi parlare, coglione, fammi parlare. Il movimento neoborbonico non è un movimento. Aspetta, Enrico, che Parenzo ti dice che cos'è il movimento neoborbonico. Il movimento neoborbonico è un movimento culturale. Tu mi tocchi il cazzo, ricordatelo, e sarebbe un onore per te. Io non capisco perché leggi questa cosa. Non capisco perché si fa impazzire. Se uno legge il il sito del movimento neoborbonico. Lei deve essere orgoglioso che uno legge. Lei parente è un coglione su che cazzo neoborbonico. Cosa fa, scusi? Io non sono neoborbonico comunque. Lei e allora perché? Perché cazzo si eccita così allora quando viene pronunciata la parola neoborbonico? Ah, dai, coglione, su, mi fai parlare, coglione, che... mi fai parlare. Hai saluti a casa, hai già parlato tantissimo. Non ho detto nulla perché tu come al solito fai le bandiere del regno delle due Sicilie, i gigli d'oro borbonici, le coccarde rosse dei briganti. Mamma mia. Vai, vai, forza, vai, vai con la cazzata, vai. Enrico, vai con la cazzata, vai. Con la cazzata? Allora, dì a quel allora, ascoltami. Dimmi. Ma cosa sono ste frecce? Amico Giletti, che ogni domenica pomeriggio, quando senti, parla degli scandali di 20 milioni di euro, 12 sì, milioni di euro in qualsiasi paese sperduto sì, del meridione, ecco, sì, che ogni tanto parlasse anche delle centinaia di milioni di euro sì, di merce rubata, di soldi rubati al nord. Al nord, sarebbe sì, un... ma che, di nord, cosa ma che ne so, sì, ma sì, sono i numeri, lei si può bene leggere i report questo di Banca d'Italia, ha fatto la tripletta. Ma di cosa vuol dire? Dei conti. Oh, coglione, ha fatto la tripletta. Tu devi solo saper leggere, dai, prendi i report di Banca d'Italia, i report della Borsa dei Conti. C'entra. Ma che ne so. Leggi di sole 24 ore, testa di cazzo, allora. Sì, ma su che cosa? Ma perché così agitato? Cosa è successo? Non ho capito. Che è successo? Ma che è successo, Enrico? Cos'è che è successo? Che è successo? Che è successo? Che è successo? Sì. Ma perché è così agitato? Non ho capito. Molto ma cos'è che devo leggere? Che cosa? Il furto fatto a chi? No, del furto fatto al sud? Del furto fatto al sud? Ma del furto fatto al sud? Sì, certo. Domenica pomeriggio. Ma il furto fatto al sud? Questo? Ogni tanto a cosa serve la Brebemi, il project financing? Sì, ma che c'entra? Di cosa parla questo? Queste sono le tecniche con cui voi al nord rubate la tecniche. Questo qua è neoborbonico, bisogna sempre dire che è neoborbonico. No, Sarrabia, se lo dici. No. Devi sempre dire che è neoborbonico, perché se non partiamo dal fatto che... Neoborbonico un coglione che sei, mi sono spiegato? Ma perché? Eh? Ridi sto cazzo, Cruciani. Ma perché è arrabbiato così? Enrico, allora no, tu, mi spieghi un po' la tripletta, che è più interessante. Hai fatto la tripletta. Però il movimento neoborbonico intende ristabilire la verità storica. Facciamoci spiegare la tripletta, dai. La Brebemi, 300 milioni di euro. Ma non è la tripletta, qui era interessante la tripletta. Ma era interessante la tripletta. Avete creato l'alta velocità avete pagando chi? Il costo sul chilometro più alto del chi? Mondo. Chi? Testa di cazzo, voi al nord. Ma voi del nord cosa vuol dire? Voi del nord chi? Cosa? Tu, coglione! Ma io ma cosa? Non dici niente noi. Che stai zitto. È spettacolare. Cruciani. Sei spettacolare, amico ma mio. Sei spettacolare. Così? Enrico, allora io voglio capire... La tripletta è più interessante la tripletta. Possiamo vedere in diretta televisiva. Ma no, ma non ho bisogno. Spiegami un po' la tripletta che è più interessante. Hai fatto veramente la tripletta, perché un sacco di gente non riesce a fare la tripletta oggi, sai? Cruciani, un sacco di gente ha problemi, non riesce a fare la tripletta. Cruciani, ma quando hai fatto l'ultima tripletta? L'ultima tripletta quando l'hai fatta? Cruciani, vaffanculo assorda, capito? Ciao Enrico, ciao. Hai rotto il cazzo, bravo. Ciao, ciao. Lores, Vicenza, Lores, vai. Buonasera. Oh, amica Lores, quanto tempo? Tanto tempo, esatto. Se sei tu, se sei tu. Sì, sono io. Dimmi cara, dimmi, la nemica allora, di Parenzo, io... Lores, ancora me lo ricordo. Ah, ho capito battaglie chi è. Epiche amo, con Lores. Sì, ho capito amo Giletti e la follia, il solito vittimismo. Understand? Che... Sei tu che facevi, sì, è lei, è lei. Understand? No, non sei tu, non sei tu. Forse no. Sì. No, forse no, Lores, vai, dimmi. Prego, cara. Allora... Lores. Amo Giletti veramente, a parte che è un sexissimo, cioè te lo faresti che... subito oggi, sì, sì sì sì, ma immediato, non è che ci deve telefonare per questo. Vabbè, questo è interessante, allora, scusa, domani sera da Nanto qui noi sta con una vicentina, la tra l'altro facciamo la fiaccolata, sì. Per vabbè, adesso questo ce ne fottiamo, la fiaccolata per l'eroe vicentino ce ne fottiamo, sì, sì, Lores, sì, interessante che Giletti ti faresti Giletti che sta però con una vicentina subito sta con una vicentina, però signor Giletti sembra poi non lo so, ma con la Moretti, ma quella deficiente come adesso, là, che non la vogliamo neanche vedere, ma proprio vogliamo, veramente parli, vabbè, parli, no? Per lei a titolo personale, no. Come sempre cara Lores, zitto Monac, cazzo butto, tipa, domanda merda, che non ti sia altro, Eccola allora, qua, la graziosa Loras, come si carica subito. È cresciuta nelle migliori scuole di Buckingham mia. Palace, la signora Loras. Ma smettila, coglione! Eccola qua. Ha già cucinato la polentina, cara? La polentina l'ha cucinata stasera, la polentina, così ha girato con la maiolo. Cara la mia Loras, l'ha girata la polentina con il ramaiolo stasera, così la polentina, l'ha girata con il ramaiolo lì in cucina, no? Col fuoco, su dai, che sennò si attacca magari, la polenta. Magari che avesse il fogare da fare la polenta, non lo ho purtroppo. Comunque sta zitto, dai, che ti la merda te ne ha su Sanremo, meglio che te la... Traducete in italiano, no, però, dice la signora Loras, allora, dice, la merda è andata nel cervello, dice la, la signora Loras. A te. Sì. Cara signora Loras, domani fate la fiaccolata per il mitologico stacchio. E se uno zingaro viene dentro a casa mia, sì, quello non lo vede più nessuno. E che gli fai, scusa? Esce dentro i sacchi neri. Beh, Loras, non esce più. Ho capito, no, Loras, però scusa, se un rom c'ha in mano coltelli, pistole, non penso che la cosa sia, cioè, potrebbe, potresti anche uscire tu con la bara, in bar. Ma non, lui non sa cosa ho io a casa. Che però c'hai in casa? Cosa a casa? È quello che serve. Che c'hai? Dentro, no, no, no, adesso approfondiamo questa storia. Che c'hai a casa? Coltelli, Ah, ma con i coltelli che ci fai? Coltelli per la cucina. Quelli che ci fai? Con le bande rom organizzate, quelli c'avano le pistole e tutto, ti fanno un mazzo così, ti fanno. Ma sta tranquillo. Cosa? Ti fanno un mazzo così. No, gliel'ho fatto io il mazzo a quelli. Ma con chi vivi, Loras? Con chi vivi? Guarda che quelli con chi vivi quelli stuperano, fanno di tutto, stuprano. No, ma io guarda, sono vecchio, non fanno neanche quello. Sta tranquillo, ho 65 anni, dunque non preoccuparti. La voce più giovane però, Loras. Lo so, inganna. Mica male anche vedermi, Beh, questo adesso. Rispetto a quel che dice, insomma, io mi spaventerei. Ma sta zitto, coglione, che non ti sia. Io altro mi spaventerei a vederla, allora, in faccia rispetto a quel che dice. Ecco, bravo, tu dicendo tu lei sì, cose vomitevoli. Non vedere a tiene Parenzo, perché ti faccio correre tiene, le gambe alte 10 io passo centimetri. Tutte le volte per tiene, tutte le estati passo per tiene, tu conosco benissimo tiene. E se io ti vedo, ti faccio consumare i 10 centimetri. È reciproco, è reciproco. Cara la mia signora Loras, l'educatissima Loras. Beh, guarda, quando tiene. Vedo un mostro di Loch Ness, attiene, so perfettamente chi è. Quando vedo un mostro di Loch Ness che si aggira con un coltello in mano per tiene. No, io i coltelli li lascio a casa. Vabbè, ragazzi, mi avete rotto le scatole. Vabbè, ciao a tutti, a domani, ciao. Andate per una fanculo e finisce la questione, insomma. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Divertitevi. Radio 24. La passione si sente.